al di sordi, ti faccio la storia in sordina. E se sanno ciò che mangio, voglio concimare qualcosina. Dovrei smettere col rap, sto conoscendo troppa gente. Rostitico, ma di figure di merda sempre incontinente. Ho un tic per ogni errore che commetto nel sociale. Ho così tante pare che le devo ripassare. Poi ci devo ripassare, cacchio. I veri vivi pari riparano svuotando il pacco. Io stasera mi ritrovo in ginocchio ad adorare Bacco. Figuravo il mio malessere come un cancro patogeno. Poi ho capito che l'unica parte sana dentro un corpo cancerogeno. Trainato tra i nati per morire, ma mi annoia morte. Ho stretto a me la vita. E andiamo avanti con l'inaugurazione della Radio ZAM. E devo alzare la voce perché mi hanno detto che non esce bene la mia voce. Quindi cercherò di fare questo sforzo. Io oggi sono addormentatissimo. Meno male che è domenica e sono qua. E abbiamo il laboratorio di hip hop che adesso ci dice due parole. E io volevo subito proprio partire con una domanda da bastardo e chiedere: abbiamo davanti a noi ZAM Hip Hop Lab e Rap Caverna Post, due cose separate ma che in realtà confluiscono poi nello stesso luogo, nascono nello stesso luogo. Un po' la genesi di questa cosa, quanto tempo fa vi avete iniziato a trovarvi, chi siete, dove vi piace suonare, cantare, a chi vi ispirate, proprio come se fosse una intervista musicale. Mi interessa proprio il discorso musicale, passando però dal tema del laboratorio, quindi la necessità di un gruppo di persone che amano l'hip hop, amano il rap, amano scrivere, di trovarsi nello stesso luogo per scontrarsi, confrontarsi, ritrovarsi e tutte queste cose. Ok, allora per distinguere diciamo il livello ZAM Hip Hop Lab da quello Rap Caverna Post, parlo in questa maniera perché io sono Yax e faccio parte di entrambi, e quindi lo vivo anche un po' come un dualismo interiore. Però cioè, appunto, bisogna risalire alla nascita di tutta questa roba, che è stato un tot di anni fa all'interno dello ZAM di Via Olgiati, nel quale Orso e Chiara decisero di organizzare un incontro settimanale che si chiamasse ZAM Hip Hop Lab, e sentirono ESA, che in quel periodo era interessato a svolgere questa attività, e appunto decisero di creare questo momento che fosse aperto a chiunque avesse voglia di andare lì e scrivere rime, rappare, chillare, conoscersi, tutto quanto. Appunto, io in quel primo periodo non c'ero, quindi parlo per cose che mi hanno raccontato, però appunto immagino che fosse un progetto molto basato su quello che sarebbe potuto diventare, piuttosto che una cosa fissa, concretissima all'inizio. Comunque, io sono arrivato al lab in un periodo subito successivo, in cui cioè c'era stato forse già qualche lab. E, insomma, io c'ero andato perché facevo rap con un mio amico che più o meno conosceva ZAM per conoscenze, così. Io ne avevo sentito parlare ma non c'ero mai stato, e mi aveva detto che c'era questo momento con ESA per beccarsi, scrivere, si scriveva tutti insieme, quindi in quel periodo stavamo scrivendo e ovviamente ero interessatissimo, e così siamo andati e abbiamo conosciuto questa realtà che è, appunto, fin da subito ci è piaciuta un sacco, perché si potevano fare un sacco di robe, ci si poteva esprimere a un sacco di livelli, insomma era stupendo. E diciamo che dopo un tot di tempo, quando ESA non poté più portare avanti questa roba personalmente, diciamo che comunque il progetto è andato avanti, e le persone che l'avevano frequentato, diciamo, più assiduamente hanno cominciato anche a metterci del loro, a prendersi bene, cioè a creare insieme anche a Orso e Chiara tutto quello che poi è diventato il lab, che insomma poi c'è stato anche uno sgombero di mezzo che sì, ci sono stati due sgomberi di mezzo, anche se parlando del primo sgombero, diciamo, io ricordo la nascita della Rap Caverna molto associata allo ZAM, quello di Santa Croce, quindi era già avvenuto uno sgombero di mezzo in cui il gruppo, che sebbene fosse quello iniziale ancora un po' muzzo, era sopravvissuto, i rapporti erano continuati, e anzi nel centro sociale successivo avevamo fin da subito deciso di prendere uno spazio e dedicarlo a quell'attività e riplasmare da zero quell'attività, di creare un laboratorio di registrazione che fosse aperto, libero a tutti, che fosse appunto inclusivo nei confronti di tutti e che permettesse sia a chi non voleva a chi non poteva permetterselo, sia a chi comunque in ogni caso credeva che le cose fatte in quel modo lì sarebbero state migliori, di appunto recare, produrre e fare tutte cose. Diciamo che la Rap Caverna è nata da quello che di personale si è sviluppato grazie all'esperienza dello Zami Pop Lab, perché ovviamente questo gruppo, sebbene sia anche un po' cambiato nel tempo, comunque è un gruppo sempre in divenire, comunque si è anche molto legato a livello personale tra di noi, siamo diventati anche super amici, abbiamo anche conosciuto le nostre convergenze e divergenze anche dal punto di vista musicale, dei nostri gusti, delle nostre cose, insomma ci siamo un po' assettati come gruppo e quello è diventato Rap Caverna Boss. Quindi insomma la distinzione poi a livello materiale è che Zami Pop Lab è il progetto che gestisce quel luogo in cui si registra e si fanno cose, è un collettivo che si becca tutti i martedì per organizzare le attività, per organizzare un sacco di cose, e invece Rap Caverna è il gruppo musicale che poi fatto più o meno dalle stesse persone, anche se non al 100.000% di Zami Pop Lab. E quindi quando ci becchiamo come Rap Caverna strippiamo sulla musica, quando ci becchiamo come lab pensiamo a tutta una serie di altre cose. E niente, questo è più o meno la distinzione. Poi appunto dal punto di vista musicale di Rap Caverna, non so, secondo me il bello è che è sempre, cioè è molto malleabile, cioè che siamo anche molto, cioè abbiamo tutti un gusto musicale abbastanza indirizzato, cioè a chi piace di più il rap di un certo tipo con le sonorità più cupe, incazzose, c'è cioè chi gli piace di più o che in quel momento si strippa di più con la trap incazzata piuttosto che con la trap chillata, piuttosto che con il rap vecchia scuola, cioè quello che ti fa ascoltare la traccia dello zio che gli piace un cifro nuova che spacca, cioè siamo come gusti musicali, a noi ci piace il rap, diciamo l'elemento comune è il rap che trasmette qualcosa, è fatto per quel motivo lì che non si riesce bene mai a capire quale cazzo sia, che però capiamo, vuol dire, che però capiamo quale sia, che diciamo non è, non con l'obiettivo di creare qualcosa di commerciabile senza senso, ma diciamo che il rap per noi è un certo tipo di espressione che ti può far dire determinate cose che quando sento in qualche traccia mi prendo bene, indistintamente dal genere, strettamente, poi sempre di rap stiamo parlando, quindi alla fine quello è. E quindi insomma abbiamo un sacco di influenze musicali, abbiamo, alcuni di noi suonavano strumenti, alcuni di noi li suonano ancora, quindi diciamo che il gusto delle nostre tracce è molto legato alla fotta del momento e a cosa esce fuori in quella situazione lì, perché spesso anche le tracce che, non so, che ci hanno preso più a bene fare sono state quelle, diciamo, uscite fuori in un momento collettivo di presa bene e di unione, diciamo, dell'intento di fare quella traccia. Quindi è tutto molto vago, però diciamo che ascoltiamo un casino di musica, ascoltiamo un casino di rap, quasi tutto, diciamo, e boh, poi ognuno c'ha un po' le sue. Quindi siamo su un piano di autoproduzione totale e la cosa bella è che nel laboratorio si registra anche, giusto o sbaglio? Quindi chi vuole portare un progetto o collaborare ha la possibilità anche di registrare. Ci sono delle pubblicazioni che si possono sentire online, io vi ascolto spesso, c'è un SoundCloud attivo, che pubblica cose, c'è una pagina Facebook, quindi comunque c'è anche una parte di noi produciamo e vogliamo farci sentire, c'è un pubblico sia virtuale che reale, perché poi fate anche concerti. Vuoi parlarmi anche del momento del live? Magari me ne vuole parlare Ceso, se c'è qualcosa di particolare. Io quando vi sento siete belli infottati, quindi ci sarà una componente importante del farlo poi in live, quindi uscire dal laboratorio, andare nelle strade, nelle piazze, parlare con la gente e cantare alla gente. Sì, esatto, proprio così. Cioè, al contrario di come magari capita molto spesso tra i trapper o i rapper, diciamo, della nuovissima scuola, che loro praticamente registrano la traccia e la cosa più importante per loro è il videoclip, e a volte capita anche che ci siano dei personaggi che diventano famosissimi e hanno non so quante migliaia, centinaia di migliaia di visualizzazioni, ma poi non hanno praticamente mai fatto live. Invece per noi, oppure, esatto, se li vedi live, non gli basta il fiato per chiudere le barre, piuttosto che senza l'autotune fa schifo alla merda. E invece per noi live è forse la cosa più importante, perché intanto perché praticamente sempre, tranne rarissime occasioni, i nostri live sono insieme a live di altre crew o di altri rapper, e quindi è un ottimo modo per noi di, diciamo, assorbire flussi degli altri e anche trasmettere agli altri rapper il nostro punto di vista, il nostro modo di fare musica. Dall'altra parte è anche, diciamo, la maniera più diretta di trasmettere a chi ci ascolta cioè, oltre ai contenuti, anche, non so, delle sensazioni, la presa bene del momento, la fotta del momento e così. Molto spesso i nostri live sono legati a delle situazioni, delle azioni politiche, come è stato ad esempio il nostro live prima del corteo per Dax, dove in Darsen abbiamo suonato sul carro che poi è stato il carro del corteo. Però diciamo siamo tendenzialmente aperti a qualsiasi tipo di situazione dove poter spingere la nostra musica. Adesso mi faccio venire in mente qualche altra domandina, e per quanto riguarda, magari può essere lunga, però proviamoci ad entrarci nella parte della scrittura. Quindi ogni singolo individuo scrive anche per sé, scrive anche al di fuori della rap caverna e poi integra i suoi testi all'interno di un collettivo di più voci. Quindi io ascolto hip hop, ascolto rap, arrivo a 3, 4, poi mi fermo lì perché i featuring sono quelli, invece voi siete tante teste che hanno tutti delle parti, quindi io noto sempre questa cosa quando vi vengo a sentire i live, le poche volte che sono riuscito a passare, è che sembra che ci sia proprio un copione a un certo punto. C'è la parte sua, poi c'è la parte sua, poi uno vuole integrare, l'altro spinge, gli dà manforte, eccetera. Che struttura c'è dietro questa parte della scrittura in vista della canzone, che poi sarà una cosa unica, corale? Tutte e due, uno dei due, chi c'ha voglia? Dunque, la verità, al di là di tutte le scalette, la preparazione che possiamo avere o la testa che ci mettiamo, tantissime canzoni nostre nascono alla cazzo di cane proprio. Cioè, può essere che uno fa il beat e ci scrive sopra e fa sentire il testo agli altri e gli altri si prendono bene e ci scrivono sopra anche loro. Può essere che a qualcuno venga in mente un argomento, oppure non lo so, un titolo strano, un titolo che lo strippa così, lo dice agli altri e la si scrive insieme. Può essere che magari due o tre scrivono la loro canzone e gli altri non ci scrivono. Comunque è tutto molto fluido come struttura. Poi, diciamo, partendo da questa cosa un po' a muzzo, è vero che nei live le canzoni sono anche molto diverse tra di loro, anzi forse proprio per questo modo fluido con cui nasce. All'interno del live ci sono, diciamo, le canzoni sono più o meno una volta che le scriviamo e le registriamo sono quelle. Poi ovviamente c'è la volta in cui uno ci fa la strofa in più, una volta in cui magari quello lì non c'è al live perché siamo 10 persone, quindi magari a volte non siamo tutti e quindi si integrano con altre strofe, però tendenzialmente una volta che la canzone è fatta è quella. La struttura del live cambia, però è vero che c'è sempre una prima parte, una seconda parte, una parte più cattivona, una parte invece un po' più conscious, le ultime trappate che abbiamo scritto, quindi magari c'è la parte più trappusa, la parte più boom bap, però sì, sostanzialmente nasce tutto alla cazzo di cane, anzi. Fino a pochissimo tempo fa è stato quasi sempre così. Una delle ultime canzoni che abbiamo scritto, che sarà contenuta in Sorvegliato Speciale in attesa di giudizio, che sarà il nostro nuovo progetto, l'abbiamo scritta partendo dal titolo e poi ognuno, pensando a quel titolo, scriveva delle parole che gli venivano in mente. Abbiamo scritto tutte queste parole su un foglio e quindi nei nostri testi si parte da quelle parole lì che abbiamo scelto. Quindi a volte facciamo così, però normalmente parte un po' a muzzo. Sì, su questo argomento devo dire che è stato sempre un po' un qualcosa che ho pensato per un sacco di tempo senza mai riuscire a capire bene come cacchio si facesse a fare una traccia con le rime di tutti che volevano fare in quel momento, però a dargli un senso, diciamo. Cioè, che secondo me una traccia non deve avere per forza, cioè, una storia che inizia e finisce. Può anche essere una successione di cose, immagini, qualcosa che viene fuori, però a dargli quel qualcosa che lo fa essere una traccia unica. E spesso mi sono chiesto come cazzo si fa, e credo che ed era appunto una roba che un pochino mi preme, perché siamo appunto un gruppo abbastanza grande e far coesistere sulle stesse robe così tanta gente diversa su cercando di dire di dare un argomento è abbastanza difficile. Comunque, appunto, come dice Cesa, abbiamo provato a fare in quel modo lì e devo dire che ha funzionato abbastanza, e inoltre possiamo anche ora che abbiamo fatto quella cosa, possiamo anche interiorizzarla un po', e tipo in questo momento stiamo scrivendo una traccia che è nata abbastanza a caso, che si chiamerà Chef Joe, ed è venuta perché una sera ci siamo presi particolarmente bene su sto Chef Joe, ci siamo un po' immaginati il personaggio così, e quindi adesso, cioè, Chef Joe è un po' nell'aria di ognuno di quelli che si è preso bene con la traccia, quindi non conta molto quanto tempo passa o se ci vorrà una settimana o un mese, così, però un pochino gli vengono in mente due barre, le scrive, piano piano la gente c'ha i testi, così, e insomma in quel modo tutti stiamo svarionando più o meno sulla stessa cosa, poi ognuno la dirà in modo diverso, però in qualche modo si riesce a convogliare tutti verso un qualcosa. Vabbè, questa la anticipiamo, e ero curioso di sapere appunto la forma che ha preso il laboratorio esterna da Zamb, cioè c'è una forma che ha preso il laboratorio ed è una cosa secondo me bellissima perché è andata a finire nelle scuole. Com'è capitata questa cosa, chi l'ha voluta, chi l'ha cercata e perché, e che cosa fate soprattutto? Allora, i laboratori nelle scuole sono nati un po' dall'esigenza collettiva di portare fuori la cosa che siamo riusciti a trovare all'interno dello Zami Pop Lab, cioè praticamente riuscire attraverso la musica anche a riflettere su tematiche importanti, diciamo, sia politiche sia, cioè, ognuno poi nei suoi testi ci scrive anche, non so, le cose sue, gli sbatti che c'ha, la presa bene di quel momento, e secondo noi è proprio uno strumento potentissimo di crescita positiva dei ragazzi, delle persone in generale. E quindi noi abbiamo pensato di strutturare dei laboratori nelle scuole. Sono stati strutturati, diciamo, a partire anche da competenze professionali che alcuni dei ragazzi del laboratorio hanno. Ad esempio, io ho studiato psicologia e ho cercato di applicare quello che ho studiato nella strutturazione di questi laboratori, e quindi questo è il secondo anno che portiamo in diverse scuole dei laboratori di scrittura per parlare di antifascismo e tenere viva la memoria della resistenza partigiana. Quest'anno per la prima volta siamo entrati proprio in classe, non soltanto durante le occupazioni e le autogestioni, ma delle prof ci hanno dato delle loro ore per fare questa cosa. E diciamo sono attività spot, cioè noi facciamo un laboratorio di 2 ore che è unico e non è proposto più volte. La cosa che diciamo ci ha fatto molto piacere è il fatto che in 2 ore, strutturate sia con delle attività laboratoriali non proprio di scrittura, sia proprio con dei momenti per scrivere, la cosa che ci ha fatto piacerissimo è che in tutte le classi i ragazzi hanno scritto dei testi, e per la stragrande maggior parte delle persone erano persone che non avevano mai scritto prima. Quindi diciamo ci ha permesso di vedere come lo strumento della scrittura in rima, se portato con l'attitudine giusta, permette davvero di riflettere e rielaborare dei contenuti. Diciamo la scrittura permette di potenziare, di sviluppare delle competenze che poi sono diciamo utili nella vita di tutti i giorni, e che in particolare fanno sì che le persone siano antifasciste. Faccio un esempio: la capacità di essere empatici verso la sofferenza degli altri è un qualcosa che diciamo noi siamo, diciamo, ce l'abbiamo innata come cosa, però diciamo la cultura che respiriamo intorno a noi ci permette di svilupparla di più o di meno. La scrittura, il fatto di soffermarsi su un qualcosa che ti è venuto in mente, di appunto prendere stimoli da fuori e rimetterli in gioco come ti esce dalla penna, diciamo, è una cosa che ti permette molto di sviluppare l'empatia se ti si dà gli stimoli giusti con cui scrivere, piuttosto che il pensiero critico, ragionare criticamente sulle cose che ti circondano, sulle informazioni che ricevi, sulle sensazioni che provi attraverso la scrittura, è una cosa che si riesce a fare diciamo in maniera oltre che efficace anche divertente. Cioè prende bene scrivere, se entri nel flusso che ti viene il testo che ti piace, è proprio una presa bene. E quindi diciamo ha un sacco di potenzialità, e tra queste anche poter fare politica nelle scuole o non nelle scuole in un modo che è diciamo arricchente per chi lo fa, ma anche molto divertente. L'ultima proprio rando, che può essere anche soltanto una frase di risposta: prima avete citato un progetto nuovo, avete usato proprio la parola progetto, e io vi chiedo se si può usare la parola, io sono affezionatissimo, disco. È l'idea di un disco, l'idea di anche in formato digitale, non per forza che io ce la debba avere in mano, ma quello che è un disco con Rap Caverna Post, un titolo e una serie di tracce, è questo? Sì, è questo, diciamo che progetto perché non l'abbiamo ancora fatto, appena lo fai diventa disco. Comunque si chiamerà Sorvegliato Speciale in Attesa di Giudizio, dedicata a Giovanni, che è qua sotto, che salutiamo, grande Giovanni, e boh, bella lì. Raga, grazie mille, grazie per il vostro tempo. Adesso piazziamo due pezzi. Gulli, sei desiderato in radio, grazie. Gulli, su in radio, grazie. RCP, il tuo momento perfetto, più pericoloso di un pesello a letto. se diamo forma a ciò che fermo e vago. Spesso queste notti non sto fermo e vago. Wanna fa nel senso, fra i da fare. Ne hai già scassato il pacchetto, ti pare? Che gli amici sono amici solo se son pochi. Leggi valide nell'iride degli occhi. Questi pezzi ai bisonti, questione di bisogni. Lotta verso questi orizzonti. Rimasti molti, conto i passi persi. Insistenti e rimorti, sembrano sei anni ma è solo un mese. Non puoi dire autogestione in inglese. Bocce su teste, Bud Spencer. Cena illegale, no, non vado a spese. Chi dorme non piglia pesci, ma mutanti è il mondo che vedevo va in collasso. Si assottiglia il discrimine tra crimine e stato. A che serve avere carte buone quando piglia tutto l'asso? Io non riesco a stare con le mani in mano, manco se diventa gioco di villano. Riequilibrio il mio cursore tra paura e rabbia. Critico, mentana in corpore umano. Sorrido a 32 denti, se vedo scagliare un denta cruel su Renzi. Smaltisco tresciate indifferenziate sopra i 4 quarti verso i 4:20. Medici di questa merda sempre con una 16 in prima linea. Parto per un giro del mondo su 80 ppm stile Maiol Sport Vogue Phileas. Ma qua si può salire, scendere, fendere un fader o l'aria rovente. Un'estensione del presente squarta il tempo come fosse una lama tagliente. Ho quasi un quasar nel quoziente, quel che desidera una stella cadente che buchi l'atmosfera di questa bella gente che vedo e non mi saluta neanche. Ma se chiediva la grande il problema è la domanda da porre. Io lo chiedo alle porre, io le inchiodo alle porte. Ma lo si vede soltanto se si apre internamente o i cardini puoi togliere. C'è chi bussa forte in mano, chi sta fermo sul divano. Rigurgita i suoi fottuti pareri. Lui non vede, non sente, non parla. Ma chi non beve, non dorme, non mangia, entrerà dalle fottute pareti. Lavo, cucino e stendo i panni. Lavo, cucino e stendo i panni. Lavo, cucino e stendo i panni. Lavo, cucino e stendo i panni. Tu passami il mocio, il nome è Doku, il ludo su Doku, raccolgo il suo sangue su Dojo, di fretta col sugo sul fuoco, aspetta che all'ultimo scopro, che il mio ultimo scopo, arrivare a dopo ci arrivo con l'offo, tu dacci una mano, non farci le foto, la tua wave non la quoto, io so chi sei, nulla vuoto, attraverso il mare a nuoto, starò a scoglio dentro il maremoto, flow calpesta fiore, resta pure, tonfa contro teste dure, RCP zenga cure, tanta palestra a letto presto, mangia le verdure, Peter Pan Parker flow, non cambio le carte sto servito a coppe e carte d'oro, ragnatele sui muri, hard deco, gioca zappina di blatte bro, wanna fuck anche no, perdi punti, cala score, basta una punta e cala io, ti screccio sul tattoo e parte no. Becco lungo sono il marabù. Tutto ciò che disprezzi sono il marabù. C'ho la gobba sulle spalle sono il marabù. Non ho amore da dare scusa, sono il marabù. Oggi non esco da parella bassa. Cerco me stesso sasso nella calza. Butta la giacca resto chiuso in casa. Polvere che fluttua dada. Passeggiata chi sciasa. Con la testa quindi a chi sfasa. Non gli do retta una mia scusa. Schillata nel deserto Mufasa. Me la cillo senza fare fusa. La tua scusa è scontata. La mia è una bestia rinchiusa. Con gli sbatti di chi accusa. Vado avanti alla rifusa. Per arrivare giù in capusa. Dai miei mostri a perchiusa. Vecchio dentro Matusa. Vuoi un abbraccio Medusa. Ogni tipo ha delusa. Scusa Maola. Testa pelata e becco lungo. Sono il marabù. Tutto ciò che disprezzi sono il marabù. C'ho la gobba sulle spalle sono il marabù. Non ho amore da dare scus. Sono il marabù. Testa pelata e becco lungo. Sono il marabù. Tutto ciò che disprezzi due mondi coloriti sfumano, io ne cerco la tempera per capirne l'adattamento all'astrazio che impera e divide gli umani in bestie, solitaria in branco di compagnia ma che sa leggere soldi, etichette e fogli di via. Io sto ancora fermo tra la prontezza e la partenza, sì che del viaggio ho dovuto farne parvenza, in permanenza al mio confino, al confine delle vite di chi mi somiglia. Ho imparato a tenere chiusa la bocca per parlare un'altra lingua, sempre la stessa musica sotto il disco solare. Solere isolarmi per un interludio ormai più non mi illude, ma ho un amico e uno spino per restare calmino quando il sole fa capolini, alla luna fa capolino e mi solletica.